that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. There must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con un pezzo di Christine Delphi. Ottenere nuove leggi non era la preoccupazione principale dell'MFL. Il suo scopo era più ambizioso, più utopico. Le leggi sono state il positivo sottoprodotto di un lavoro gratuito, privo di finalità concrete e immediate, come la ricerca di base. E se un sottoprodotto è nato, è anche perché non era lo scopo ultimo, o piuttosto perché si mirava più in alto. Questa ambizione irrealistica, che si permetteva di mettere tra parentesi la realizzazione immediata, ha prodotto un tale slancio che alcune cose sono state poi ottenute in concreto. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Abbiamo aperto con un pezzo di Christine Delphi che parla delle lotte degli anni 70. Perché? Perché in qualche trasmissione, mi pare una trasmissione prima dell'8 marzo, abbiamo fatto un collegamento con le compagne che hanno aperto di Milano, che hanno aperto il blog Da Kobane a Noi. E in quella trasmissione sono venute fuori una serie di riflessioni sul rapporto tra noi e la lotta delle donne curde. Praticamente, tra le altre cose, ne sono state dette tante, però è venuto fuori questo, che in effetti anche noi abbiamo avuto un momento rivoluzionario molto forte, che è stato quello degli anni 70, proprio dal punto di vista generale, ma proprio dal punto di vista dell'oppressione delle donne, quindi dal punto di vista femminista. Il femminismo in quel momento ha fatto qui da noi un salto di qualità fortissimo. E ci stavamo chiedendo una cosa in particolare, cioè se più che una riflessione su quello che stanno facendo le donne curde, la rivoluzione delle donne curde nel Rojava, non fosse importante per noi e per loro una sorta di scambio, perché noi come femministe che stanno qua in questo contesto preciso dovremmo chiederci una cosa, dovremmo chiederci come mai da quel momento di grande potenza degli anni 70 noi siamo arrivate qui. E questo potrebbe essere la riflessione su questo, è un intrecciarsi di azione politica, storia, memoria e confronto, e quindi potrebbe essere utile a loro per capire tutta una serie di meccanismi e a noi stesse per capire tutta una serie di meccanismi. Thank you. esempio, tanto per partire da qualche osservazione storica, cioè tutti i movimenti che sono stati sinceramente rivoluzionari, in tutti questi movimenti è venuta fuori in maniera prepotente la questione dell'oppressione delle donne. Cioè, tanto per farvi degli esempi, la Comune di Parigi, la guerra di Spagna, no? Le miliziane del PUM. È uscito da pochissimo un libro che è una tesi di dottorato, che è proprio Le miliziane del PUM, ed è soltanto in francese, purtroppo. Vedremo se riusciamo a tradurne alcuni brani e farvi, insomma, partecipi, magari ci potremo fare una trasmissione, che è illuminante rispetto alla presa di coscienza delle donne all'interno di quel processo rivoluzionario e del loro ruolo. È uscito da pochissimo, mi pare a settembre, però è soltanto in francese. Allora, poi non dimentichiamoci la rivoluzione russa del 17, no? E ognuno di questi momenti ha declinato la necessità della liberazione delle donne in modo diverso. Però che cosa c'è in particolare di diverso rispetto a quello che stanno facendo le donne curde, e in particolare in Rojava? C'è che mentre i movimenti rivoluzionari hanno più spostato l'accento, fino a quel momento, insomma, quelli che ci sono stati, hanno più spostato l'accento sulla questione femminile, nel senso che l'oppressione delle donne è esistente, è un dato di fatto, ne sono coscienti tutti i soggetti rivoluzionari dei vari periodi, e quindi si pone il problema di risolvere questa questione femminile in svariati modi, poi ognuno l'ha declinato. E poi ad esempio è stato sottolineato anche come questa questione femminile però nascesse ad esempio soltanto con il capitalismo, con il sistema industriale, con lo sfruttamento capitalistico, ad esempio, no? Si è cercato, diciamo, di ridurre l'emergenza di una oppressione legata al genere al sistema di produzione. Sì, e certo. Basta. Sì. Non ad altri sistemi di oppressione che passano ad esempio attraverso l'articolazione della società, del sociale, certo. Come viene divisa, no? E quindi diciamo la questione femminile era la questione delle lavoratrici. Certo, per esempio. Ad esempio, no? Ad esempio. No? Anche se in questo libro, appunto, ci piacerebbe fare un'analisi in questo, rispetto alle miliziane del PUM, questa cosa invece è stata declinata in maniera molto diversa. Allora, è questo che è cambiato fortemente nei nostri anni 70, no? Per esempio, nel momento in cui da una questione di genere si è passati alla consapevolezza che l'oppressione di genere è strutturale, quindi fa parte di un modello economico, che in questo modello economico è stata costruita una struttura in cui il maschio è dominante e il maschile è dominante, il femminile è soggetto, e quindi ne è derivato per esempio la scelta del separatismo, no? Ed è questo per esempio che è una delle particolarità della rivoluzione delle donne curde, perché hanno apposto l'accento sul separatismo e hanno capito che l'oppressione di genere appunto è strutturale. Vorremmo leggervi un pezzo di Sakineh proprio su questo, tratto dal libretto giallo che ha fatto Onda Rossa. Parto. Ci sono state discussioni ideologiche sul concetto di classe e sulla prospettiva universale della lotta di liberazione delle donne. Quindi, nel terzo congresso è stato deciso di cambiare il nome in PIA, Partito della Donna Libera, per mettere la lotta di liberazione delle donne in primo piano come una lotta internazionale. Sakineh così descrive questa trasformazione. Anche se abbiamo rinunciato al termine lavoratrici, questo non vuol dire che non continuiamo a ritenere necessaria la lotta di classe. Ma pensiamo sia importante ampliare il concetto. non si può limitare la categoria donne al concetto classico di lavoratrici. Abbiamo quindi messo la contraddizione di genere al centro della lotta. What is that sound? Ringing in my ears, the strangest sound I've heard for years and years, the sound of two hearts beating side by side, the sound of one love that neither one can hide, the sound that makes the world go round, the sound that makes the world go round. What is that sound running round my head? Funny, I thought. La lotta delle donne curde ha suscitato quindi molto entusiasmo nel femminismo qui da noi. Diciamo che ci vorrebbe più che un appoggio, una partecipazione, che è chiaro che l'appoggio internazionalista, l'aspetto internazionalista del femminismo è importantissimo, però ci vorrebbe uno scambio strettamente e prettamente politico. Cioè, proprio perché noi abbiamo avuto un momento di grande tensione rivoluzionaria, che sono appunto stati gli anni 70, in cui le femministe hanno sviscerato la differenza che esiste appunto tra questione femminile e oppressione di genere, hanno usato lo strumento importantissimo del separatismo, dovremmo chiederci perché da quel momento siamo arrivate fino a qui. Cioè, quale esperienza noi possiamo trasmettere alle compagne del Rojava e per spiegare loro che cosa è successo in tutti questi anni. Tanto per darvi l'idea di... perché a me sembra che ce lo siamo anche dimenticato. Tant'è vero che... così, volevamo leggere una riga sulla memoria dal nostro... dal nostro incontro che abbiamo fatto sulla memoria femminista. Volevamo leggere una riga sulla memoria proprio per riportare un attimo l'idea di quello che dovrebbe essere e di quello che è stato e che non ci ricordiamo. La memoria è l'occasione per produrre nuove possibilità e dare un senso agli eventi presenti e futuri. Il femminismo è nato dalla prassi consapevole di soggetti che intendevano liberarsi, e la liberazione di tutte noi è il programma del passato, del presente e del futuro. Compagne e femministe ancora ieri provocavano vibrazioni che penetravano fin dentro gli abissi del disagio e della solitudine, che pure c'erano anche allora. Una generazione per anni si è riconosciuta chiamandosi femminista, e la parola suggellava un patto di appartenenza e solidarietà difficilmente verbalizzabile, proprio per la ricchezza della sua sensibilità. Ma se sono le parole a fare le cose, disfare quelle parole che sono allo stesso tempo categorie di rappresentazione e strumento di mobilitazione ha contribuito alla smobilitazione di quello che un tempo si chiamava femminismo. We'll be right back. per rinfrescare un po' questa memoria degli anni 70 e riannodare i fili, no? Anche appunto per comprendere che mirare la luna poi forse dà dei risultati, volevamo fare una ripercorrere tutte le varie leggi che sono state approvate in quel decennio, e partiamo chiaramente dalla 281 del 70, che è lo statuto dei lavoratori, che adesso è al centro infatti di una serie di ristrutturazioni e abrogazioni, la legge 898 sempre del 70 sul diritto al divorzio, la legge 1044 del 71 che era un piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato. Se dobbiamo guardare oggi che cosa sta succedendo negli asili nido, visto volta. Che abbiamo sì, proprio affrontato questo tema, ecco, ci rendiamo conto di quant'acqua sotto i ponti è passata da quella conquista ad oggi. E poi ancora le norme sull'ordinamento della scuola elementare, una legge sulla tutela delle lavoratrici madri del 1204 del 71 sempre, poi c'è le norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza invece nel 72. E poi abbiamo una serie di decreti legati alla scuola, quindi tutto è stato sociale, al diritto di famiglia nel 74, nel 75, abbiamo la norma di tutela delle acque e dell'inquinamento nel 76, la parità di trattamento di uomini e donne in materia di lavoro nel 77, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è del 78, la legge numero 833, le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza, e questa è la famosa 194 del 78, anche questa insomma come tutte le altre comunque oggetto di riforme, ristrutturazioni e vari tagli e cuci negli ultimi anni. E, la chiusura dei manicomi nel 78 e la disciplina dell'equo canone, cioè quella che stabiliva l'equo canone, e la 392 del 78, che praticamente anche questa... quella è attualissima, perché dà un calmierare degli affitti, un blocco degli sfratti e compagnia bella, no? Esattamente. Allora, questo elenco di leggi si collegano con quello che abbiamo detto in apertura di Christine Delphi, che raccontava che queste non sono, noi non ci siamo battute per questo, queste sono il sottoprodotto di una di una lotta che era stata concepita in maniera ben più utopica e ben più e fondamentalmente rivoluzionaria, e questo è il sottoprodotto. Se noi siamo arrivate fino qua, è un'analisi che il femminismo dovrebbe assolutamente fare, dovrebbe farsi carico di capire perché noi siamo arrivati fino qua e di non dare la colpa a situazioni esterne, perché c'è una responsabilità diretta che è nata subito, tant'è vero che noi penso ci dovremmo ripromettere di cominciare a fare delle puntate su questo. È nata subito, è nata in concomitanza con diciamo così il femminismo di un certo tipo, quello che io chiamo sempre socialdemocratico, fatto un'opera di ricucitura e di la famosa togliere l'acqua ai pesci per poter ringlobare le istanze che erano certo. fortemente rivoluzionarie in ambito molto più gestibile, mentre invece il lavoro di recupero di insomma della storia più rivoluzionaria, quindi anche una costruzione di una narrazione diversa da quella che impera eccetera, può essere tanto più oggi fondamentale come lavoro da fare, proprio perché c'è una ripresa anche delle pratiche e della lotta in altri contesti. Cioè effettivamente stiamo assistendo a una insomma presa di parola, no? In maniera più o meno organizzata, in maniera più o meno efficace, ma comunque il livello della pratica sta avanzando, e allora insomma è interessante procedere di pari passo anche con un recupero di una pratica femminista. Certo, infatti noi vorremmo dire alle donne del Rojava, nonostante che loro abbiano un contesto completamente diverso e sia una terra di prima linea praticamente, no? E quindi con tutto quello che questo comporta, attenzione a quello che è successo a noi. Dreams, my lucky number. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Les jeux sont faits. Tre notizie passate più o meno in contemporanea sulla stampa mainstream e di tenore molto diverso hanno però un portato che le accomuna, e sviscerarlo può essere molto utile per chi lotta nel tempo presente. La prima ci dice che il governo ha preso la decisione di accorpare la Guardia Forestale con la Polizia di Stato. È un processo cominciato diverso tempo fa e che riguarda la militarizzazione anche di quelle strutture che sono chiaramente di servizio civile, come i vigili urbani che si sono proposti e si propongono come polizia e come i vigili del fuoco, oggetto di un malcelato tentativo di militarizzazione a cui fino adesso hanno resistito. Già il governo D'Alema nel 2000 aveva trasformato i carabinieri nella quarta arma dell'esercito, aprendo scenari estremamente pericolosi, dato che questi sommano strumenti, abitudini e capacità da polizia militare con equipaggiamento e armamenti da esercito vero e proprio. Durante una sola corsa in metropolitana qui a Roma si può assistere alla presenza di militari in mimetica, carabinieri di ronda, addetti alla vigilanza del comune, addetti alla vigilanza dei tornelli d'ingresso, polizia varia. Sembra di essere calate in uno scenario da Sostiene Pereira. La seconda notizia riguarda l'accordo raggiunto da Confcommercio e Triplice Sindacale per il rinnovo del contratto della categoria, contratto che avrà validità dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017. Sono state approvate fino a 44 ore settimanali senza che scatti lo straordinario, per un massimo di 16 settimane. In pratica, nei periodi di picco del lavoro, per esempio sotto Natale, durante i saldi, le imprese potranno pretendere dai dipendenti che lavorino 4 ore in più, senza l'ok del sindacato e del lavoratore o lavoratrice stesso e stessa. È la codificazione di un rapporto ottocentesco, in cui chi lavora deve accettare condizioni che permettono la mera sopravvivenza, ed è la guerra fra poveri, perché questo naturalmente comporta la venuta meno di tutti quei lavori occasionali, saltuari, temporanei, che si potevano fare proprio e soltanto nei periodi di maggior carico di lavoro di chi uno straccio di occupazione già l'aveva. A margine, l'Istat dichiara che nel solo mese di febbraio ci sono state oltre 42.000 donne in meno al lavoro. È chiaro che il neoliberismo è strumentalizzazione dell'oppressione di genere attraverso i più svariati canali istituzionali e attraverso il femminismo socialdemocratico incarnato dalle patriarche, che in cambio della loro promozione personale collaborano attivamente all'oppressione delle altre donne ricacciate nel ruolo di cura e nella precarietà. La terza notizia riguarda il calo inarrestabile degli spettatori negli stadi di calcio di Serie A. Nel terzo trimestre 2015 la media delle presenze registra una flessione del 6,9% rispetto al dato della scorsa stagione. Ma la ragione di tutto ciò non risiede né nelle strutture degradate degli stadi né nella cosiddetta violenza della tifoseria, bensì nella sensazione che il tifoso ha di partecipare ad un gioco taroccato in cui domina l'ipocrisia, il politicamente corretto, la falsità e le mistificazioni, in cui vincono sempre gli stessi e si sa già chi sono, in cui i media mainstream sono lo strumento di una comunicazione falsa e tendenziosa, di un addomesticamento peloso della verità. Tutto ciò provoca disamore, disaffezione, rifiuto ed è lo stesso meccanismo con cui è stata demonizzata la politica e che porta ad un'apatia di fondo di fronte ad attacchi violentissimi come quelli al mondo del lavoro. La stampa non è mai stata indipendente come qualcuno voleva raccontare, è sempre stata di parte, ma ora nella stagione dello Stato di Polizia non poteva non diventare di regime, anche quella sportiva. Le jeux sont faits, il cerchio è chiuso, il neoliberismo per ora ha vinto. Alla sinistra di classe il compito difficilissimo di fermarsi a riflettere su come creare nuovi immaginari, su come ricostruire la speranza attraverso nuove forme di lotta. La parentesi di Elisabetta. Allora siamo di nuovo qui nella seconda parte della trasmissione, mandiamo un contributo che delle compagne hanno trasmesso su Radio Cane, noi lo prendiamo da Radio Cane, e proprio sull'argomento del rapporto e della loro esperienza e di quello che sentono nel rapporto tra gli anni 70 e la loro esperienza diretta e, o comunque personale, e le lotte delle donne curde, che cosa questo ha significato per loro, e quindi vi mandiamo questa registrazione che abbiamo trovato molto interessante e ci risentiamo alla fine del colloquio fra le due compagne. Ho trovato una vitalità che da tanto tempo mi mancava, proprio perché prima di tutto ho visto nel programma del partito curdo la centralità della lotta al patriarcato, cosa per la prima volta che si vede in un programma di una guerra, di un partito, di una rivoluzione, e il protagonismo delle donne curde in tutto questo. È vero che si rifà sempre al pensiero di Ocalan, che ha scritto queste cose, eccetera, ma questo pensiero arriva dalla pratica che le donne curde hanno messo in campo, pratica che non è certo quella soltanto di questi ultimi anni, ma che arriva da lungo tempo. C'è un libro che è uscito recentemente, quello di Sakine, che spiega tutto il suo percorso e fa vedere come prima di tutto guardando anche la realtà curda, che è molto diversa da quella occidentale, dove le donne sono sempre abituate a vivere insieme ed averle come referenti l'una con l'altra, non all'interno del singolo nucleo familiare, e quindi come l'oppressione della donna curda sia sempre stata vista da tutte in questa maniera, e come donne che volevano portare una lotta di liberazione all'interno hanno incominciato a studiarsi un po' tutti i movimenti e hanno preso e apportato il buono di quello che c'era negli anni 70. Nel senso, se io penso alla mia esperienza, per me il conoscere il femminismo negli anni 70 è stato proprio una rivoluzione personale che mi ha portato a un cambiamento di sguardo verso il mondo fondamentale, e questo è partito da delle pratiche precise che erano la pratica del partire da sé, di mettere in discussione i ruoli, anche della pratica dell'autocoscienza insieme a delle altre, studiavamo, guardavamo dove avevamo interiorizzato dei comportamenti e anche a quali azioni dovevamo fare per modificare queste cose. E in quegli anni c'era sì una modificazione proprio della società, una modificazione di quello che avveniva in ognuno di noi e quindi anche nel nostro ambito, cosa che logicamente era possibile perché negli anni 70 c'era anche un grande movimento sociale, e uno dei primi passaggi che noi abbiamo fatto è stato per esempio quello di rompere con i movimenti politici che avevamo intorno, accusandoli di maschilismo, rivendicando un nostro protagonismo. Se uno guarda un po' le cose che dicono le donne curde, partono dalla stessa cosa, cioè nel senso che destrutturano se stesse, criticano il maschilismo dei loro compagni, fanno tutta una serie di cose, con una differenza però appunto: negli anni 70 in Italia eravamo molto occupate probabilmente a decostruire noi, e nel frattempo la risposta, le condizioni sociali che cambiavano, la lotta come andava, la repressione ha portato anche a delle scelte che non erano mature per alcune di noi. Cerco di spiegarmi, c'erano i problemi sociali, ma non c'era nello stesso tempo un programma di donne che portava a decidere forme di lotta anche diverse nell'aggredire la società nel suo complesso, e quindi ha avuto buon gioco forse il risucchiare alcuni contenuti che venivano fuori dal movimento delle donne, che avevano delle pratiche legali. Noi praticavamo l'aborto e non era permesso dalla legge, facevamo tutta una serie di cose che erano assolutamente illegali, e poi è venuta una grande repressione e non eravamo abbastanza pronte per portare avanti dei programmi definiti. E qui vedo invece questa grande capacità delle curde che invece si sono organizzate e hanno preso la pratica del separatismo, pratica che il movimento femminista ci aveva, proprio per organizzarsi e per esempio creare i battaglioni di autodifesa, di fare tutta una serie di cose di cui oggi vediamo i risultati e vediamo gli effetti. Io appartengo ad una generazione differente, diciamo immediatamente successiva, per cui la mia attività politica è partita proprio dal movimento delle donne, non dal movimento misto, e questo proprio perché il movimento delle donne aveva già segnato delle differenze, per cui per me partire dalla lotta al patriarcato è stato normale, è stato naturale, e questa è una delle ragioni per cui la lotta delle compagne curde mi risuona tantissimo. e la difficoltà è stata, diciamo, negli anni 80 sentire che comunque nel misto la questione di genere venisse sempre posposta alla questione di classe, appunto negli ambiti del movimento misto, quando in realtà già all'interno di movimenti come quello delle Black Panthers, in particolare parliamo di Angela Davis, si era già posto il nodo dell'intersezionalità genere, razza e classe, cioè tre forme di dominio che sono strettamente correlate. Quindi non si può fare un discorso di classe senza vedere anche la questione del genere e la questione della razza. Naturalmente quando parlo di razza non parlo di razza in senso biologico, perché non esiste, ma la razza proprio come dispositivo di potere che crea subalternità. E questo per me era illuminante, perché appunto da donne mi venivano delle suggestioni molto più complesse che non quelle che trovavo nel movimento misto, e addirittura la complessità di queste posizioni era la valorizzazione anche dei diversi posizionamenti di ciascuna donna all'interno di questo movimento. Quindi non un appiattimento su delle parole d'ordine, ma invece la messa in gioco anche del proprio quotidiano, anche dell'esistenza di ciascuna, e guardare a fondo le proprie contraddizioni. Questo appunto mi risuona tanto nella lotta delle compagne curde, perché il fatto per esempio di dire il 10% della nostra lotta è contro il patriarcato, il 10% è contro eccetera eccetera, e gran parte della nostra lotta è sostanzialmente contro le nostre complicità, cioè quel dispositivo che abbiamo in qualche modo interiorizzato, è qualcosa di essenziale, di fondamentale. Le lotte che ci sono state degli anni 70 da parte delle femministe hanno modificato completamente i rapporti che per esempio oggi hanno le ragazze. Io vedo oggi delle ragazze che hanno delle possibilità che io non avevo, nel senso che dovevo decostruire altre cose. Però come sia importante, proprio prendendo l'esempio da chi è andato avanti, non ripartire da zero, ma partire da più avanti per modificare completamente le cose. Non so, faccio un esempio: adesso sta esplodendo, vedo in tante ragazze, un desiderio di maternità. Per la mia generazione è impossibile. Se io diventavo madre oggi ero un'altra cosa, non era possibile, avevo altre battaglie da compiere. Però chi vuole diventare madre oggi non è che si deve semplicemente prendere, deve pensare ad altre forme di maternità, altri ruoli, sgangherare delle formule, altrimenti ti risucchiano all'interno. Per cui deve essere un'oppressione dei desideri delle persone, o cercare di applicare i propri desideri senza cascare nei ruoli? E quindi che forme di organizzazione devi trovare per fare queste cose? Ad esempio le donne curde in questo senso portano nella loro forma di separatismo, di incontrarsi, di interrogarsi rispetto al tipo di società che vogliono, mettono come centrale il pensiero e i desideri delle donne, in un'ottica non vittimista di piangersi addosso e di vedere quanto sono oppressivi i sistemi, ma come loro devono agire per modificare le cose esistenti. Tempo c'è stato poi l'involuzione, io direi, del movimento femminista, nel senso che dal partire da sé per rimanere a sé, e il disagio, io per esempio ho provato un grandissimo disagio, parliamo anni 80-90, dove vedevo che tutto il sociale, che era quello che mi aveva più affascinato e su cui mi sentivo di poter cambiare veramente le condizioni, si sfumava e c'era sempre a guardarsi un pochino il proprio ombelico. politico, e negli ambiti misti invece come questa cosa, non essendoci una forza reale interna, non venisse fuori e tu dovevi rincominciare a dire che le contraddizioni erano tante, non erano solo quello di classe, eccetera. Nello stesso tempo, in quegli anni, per esempio, c'erano anche esempi di lotta molto grossi in per esempio in America Latina, con l'esempio del Nicaragua, con l'esempio del Salvador, con tutta una serie di movimenti di lotta dove le donne erano protagoniste, ma anche lì la differenza con dalle donne curde che c'è oggi è che erano protagoniste, ma sempre all'interno di un progetto che era ancora maschile, e quindi veniva fuori la capacità dell'individuo, ma non la capacità di donne organizzate. Quindi si ritornava all'interno con una divisione dei ruoli, per cui per esempio sì, c'erano le comandanti salvadoregne e c'erano milioni di donne che facevano delle lotte esemplari, ma non c'era questo pensiero femminista e non c'era un'organizzazione di donne. Forte in cui molte di noi si ritrovano è proprio questa rottura con tutti i dispositivi di vittimizzazione, che è una rottura su due piani. Dal primo punto di vista è l'entrare proprio in una dimensione post-vittimista, dove l'autodifesa ad esempio ha un ruolo fondamentale, e per esempio in tutte quelle immagini che sono circolate di donne in armi, di guerrigliere curde, la sensazione che io ho sempre è quella di come ciascuna di loro si senta che sta sparando allo stupratore, perché poi appunto questi fondamentalisti dello Stato islamico, nel loro rapire, vendere come schiave, stuprare le donne piuttosto che stuprare, ammazzare le donne meno belle, no? Quindi anche in questo tipo di selezione rappresentano proprio l'estrema espressione della violenza patriarcale, della violenza femminicida. E allora ecco che l'autodifesa assume una valenza molto forte. E mi viene anche da pensare a quanto nella nostra storia sia stata operata una censura anche sulle partigiane in armi durante la resistenza. Ci sono state tante partigiane armate, ma la rappresentazione che hanno cercato di darci, una rappresentazione ammaestrata, è stata quella della partigiana staffetta, che approfittava del proprio essere donna per riuscire a passare i posti di blocco e portare le armi e le cose, ma non era lei che usava le armi. Questa è una censura che è stata fatta subito all'indomani della liberazione, per cui appunto anche nelle sfilate, nelle città liberate, le donne venivano invitate a non sfilare con le armi, proprio perché bisognava riportarle subito dentro i ranghi, e non sono state in grado le donne di continuare a sprigionare quella potenza che erano riuscite invece nell'ambito della resistenza a esprimere. Ed ecco che allora appunto le donne in armi nella resistenza vengono poi rappresentate come le poche feroci, ma poche non erano assolutamente. Sometimes days go wrong, trying to find a place where you... L'altro livello appunto è il rifiuto totale della delega della propria difesa e della propria sicurezza, che è sempre un elemento che gira intorno all'autodifesa. Cioè, come noi da tempo diciamo che non vogliamo delegare allo Stato la nostra difesa e la nostra sicurezza, ci rifiutiamo di essere complici di uno Stato che continua ad emanare decreti sempre più repressivi, che sottraggono in continuazione spazi di agibilità e di libertà in nome della difesa delle donne. L'abbiamo visto col pacchetto sicurezza, l'abbiamo visto col decreto strade sicure, e ancora adesso lo vediamo con quest'ultimo decreto antiterrorismo fatto all'indomani degli attentati a Parigi del gennaio scorso. Ecco che ci vengono tolti spazi di libertà, mentre invece l'autodifesa è proprio un riprendersi in mano la delega. Noi la diamo a noi stesse, cioè non deleghiamo a nessuno, anche perché se andiamo poi ad analizzare bene, Da una parte, per esempio, appunto, in Italia è stato fatto questo decreto che militarizzerà ulteriormente le strade italiane. Da 3.000 militari ne avremo 4.800. In Turchia stanno facendo dei decreti che sono terrificanti, per cui è dichiarato ormai anche illegale vestire gli abiti curdi anche per il Nevroz, perché rappresentano in qualche modo un richiamo al PKK o comunque alla lotta anticoloniale del Kurdistan, sempre in nome della sicurezza, no? E dicevo, la cosa incredibile è che se andiamo a leggere per esempio questo documento di cui si è parlato alcuni giorni fa sui giornali, dello Stato Islamico, scritto in italiano, questo documento propagandistico, lo Stato Islamico che cosa dice? Dice sostanzialmente: nei territori che noi abbiamo conquistato i reati sono diminuiti del 90% perché noi applichiamo la Sharia, quindi abbiamo aumentato la sicurezza in questi territori. Allora ecco che proprio è la forma Stato che emerge proprio come elemento contro cui bisogna lottare per definire e praticare la nostra autodeterminazione. Una cosa che poi è risuonata anche in alcune assemblee che abbiamo fatto in questi giorni, come si è interiorizzato questo suprematismo del pensiero occidentale, che invece è completamente smentito se uno guarda le esperienze per esempio delle donne curde, come si stanno organizzando e cose di questo genere, anche nelle assemblee che abbiamo fatto in questi giorni, quindi in luoghi che parteciperanno alla manifestazione eccetera, veniva sempre fuori come in fondo l'Occidente è meglio dell'Oriente, ma con un'ignoranza secondo me tremenda, perché questo è dove ti ingabbiano, e mentre invece è proprio questa alleanza tra chi non ha potere che dovrebbe stimolare. Per cui l'esperienza delle donne curde, facendo vedere come per esempio fanno questi centri antiviolenza, assolutamente non delegando niente allo Stato ma auto-organizzandosi, avendo relazioni eccetera, e se uno pensa alle case delle donne italiane gli viene da piangere, insomma, e che dove si elemosino finanziamenti dai comuni, ci dovrebbe un attimo far riflettere e trovare strategie di azioni indipendenti. E anche qui i curdi come sono stati capaci di leggere i mutamenti che in questi anni ci sono stati, perché in fondo era un partito marxista-leninista che credeva nella nazione, e con la caduta dei blocchi ha incominciato ad avere un ripensamento ed un altro pensiero, e mentre invece io vedo letture stantie, perché sono letture intellettuali e non collegate alla pratica quotidiana. Questo per esempio secondo me sta anche questa rappresentazione riduzionista delle combattenti curde, dove ci troviamo davanti all'estetica della guerrigliera, tutte belle, tutte giovani, e non si va a vedere che cosa realmente queste donne stiano facendo, cioè che le donne stanno prendendo in mano proprio il funzionamento della società, ma non istituzionalizzandolo ma con delle pratiche orizzontali. E allora è proprio come dire la rappresentazione addomesticata che va rotta. E soprattutto non capire nemmeno che lo sprigionamento di potenza che in questo momento sta venendoci in particolare da Rojava, che sta vivendo questa esperienza in fieri, poi perché è un'esperienza in divenire, del confederalismo democratico, sia di fondo la zona da cui nasce anche la nostra storia, no? C'è sempre stato raccontato che la culla della civiltà occidentale è la Grecia, ma in realtà bisogna risalire alla Mesopotamia per risalire al nodo, alla contraddizione che a un certo punto si viene a creare tra uno stile di vita nomadico e lo stile di vita sedentario che creerà lo Stato nella forma della città-stato, delle leggi. Cioè lì c'erano due possibilità che si scontrano, e questo scontro dura anche dei millenni, e oggi sta ritornando lì. C'è una ragione, perché io credo credo che sia importante anche nutrire l'immaginario rispetto alla trasformazione. E quando per esempio mi è capitato di sentire una compagna curda nell'incipit di un suo intervento un anno fa citare la dea Ishtar, che era una dea di derivazione sumera, nei sumeri si chiamava Inanna, questa dea era una dea assolutamente libera, senza catene, era la potenza femminile, ma non quella potenza ammaestrata delle dee madri che poi sono anche state tanto celebrate in Italia nel periodo del pensiero della differenza, in cui il materno diventava dominante, ma era la dea della fecondità della terra, ed ecco dove il legame anche tra donna e terra, che è poi la dimensione ecologica anche del movimento curdo, è forte, ma anche dell'amore erotico. Negli inni di Inanna fa un inno dei propri genitali, della propria vulva, è una donna forte, è potente, non sopporta le ingiustizie, non sopporta gli oltraggi. Questo nodo che avviene tra il quarto e il terzo millennio avanti Cristo è un nodo che in qualche modo è rimasto irrisolto e sta tornando a sprigionare delle domande, e a queste domande si risponde con delle pratiche. Allora non c'è proprio nessun suprematismo che tenga, perché in questo momento il cuore del Medio Oriente ci sta dicendo delle cose, e suprematismo in questo momento significa sordità. Ci sono state forme di suprematismo in anni passati, quando per esempio si è aperta la contraddizione sul fatto che la liberazione delle donne bianche e di classe media fosse legata all'asservimento delle donne immigrate, che, a cui venivano completamente delegati i lavori di cura. Oggi il salto è ancora più alto ed è ancora più profondo, ci mette in gioco di più. E in questo appunto io credo sia importante un'alleanza con le compagne curde, perché la loro liberazione e la nostra liberazione vanno sicuramente di pari passo. La potenza delle donne curde, per esempio, lo spessore di queste donne, lo si vede quando entri in relazione con loro, dove c'è veramente un rapporto di reciprocità. Prima di tutto conoscono bene la tua storia e la criticano anche, e poi mai ti vengono a chiedere aiuto, ma ti chiedono reciprocità, ti dicono fai quello che devi fare a casa tua, io lo faccio a casa mia, e troviamo un meccanismo di unione. E questo è un messaggio che è chiarissimo in tutti i loro comunicati, in tutte le loro asserzioni. Io sto trovando tragico e divertente allo stesso tempo il fatto che utilizzare la frase detta da un uomo, cioè da Ocalan, che bisogna uccidere il maschio dominante che si ha dentro, sia una cosa che, detta nelle iniziative nostre, crea scompenso e un po' terrorizza gli uomini, perché c'è l'incapacità di leggere la mascolinità come elemento di complicità col potere. Anzi, elemento che nutre proprio il potere patriarcale, no? E secondo me è invece estremamente interessante come questa affermazione renda chiaro e lampante che la liberazione delle donne viaggia di pari passo anche con la liberazione degli uomini, cioè che l'uccidere questo maschio dominante fa sicuramente bene alle donne, ma fa molto bene agli uomini, che possono anche ritrovare se stessi al di fuori da ruoli imposti, da aspettative sociali, da una storia che dura da secoli e che li fa miseri complici e che li fa anche estremamente impoveriti, omogeneizzati tra di loro, banalizzati, oltre che naturalmente anche stupratori, femminicidi, eccetera, eccetera. Vi ricordiamo che le registrazioni, i contributi, i podcast li potete trovare sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, che potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org, che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e vi vogliamo lasciare con un sì, per concludere questa chiacchierata e anche per rinnovare insomma l'invito a conoscere la propria memoria e riappropriarsene, volevamo leggervi questa citazione di Walter Benjamin sul concetto di storia che le Medea hanno portato all'inizio del loro contributo in uno dei convegni nazionali che abbiamo fatto. Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo proprio così come è stato davvero, vuol dire impossessarsi di un ricordo così come balena in un attimo di pericolo. Il pericolo è uno solo, prestarsi ad essere strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla. That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.